molto saggio non prendere a scatola chiusa tutto ciò che viene offerto o quello che da sempre si fa. Non controllando ciò che si compra si rischia di essere ingannati, come è molto pericoloso continuare a fare cose solo perché si sono da sempre credute giuste. Una convinzione non è sinonimo di verità. Per millenni l'uomo era convinto che la terra fosse piatta. Come per secoli, i medici eseguivano un salasso a chi aveva certe problematiche fisiche. Oggi si sorride di queste convinzioni, ma non è detto che le persuasioni di oggi siano migliori di quelle del passato. Perciò, se è importante vigilare nella vita, quanto più lo è nel campo spirituale, perché un errore nel campo della nostra esistenza umana è limitato, mentre un errore in merito alla nostra anima ha delle ripercussioni eterne, come la condanna al luogo della perdizione. Perché questa premessa in merito al valore della parola di Dio? Perché da millenni la parola di Dio viene letta, studiata e predicata. Ma questo non basta a far sì che il nostro agire quotidiano sia conforme ad essa, e perché essa acquisti per la maggior parte di noi un vero valore. Come in molte religioni si studiano e si venerano libri senza, però, che per questo ciascuna persona dia ad essi quel valore comunemente attribuito così, non è detto che i cristiani avvalorino concretamente la parola di Dio nella misura in cui essi dicono. Da dove arriva allora il valore della parola di Dio? Il valore della parola di Dio arriva direttamente dal Dio Trino, che ha ispirato alcuni uomini a scriverne il testo, e dalla testimonianza che la scrittura stessa reca nei confronti della sua ispirazione. Alcuni obietteranno, certamente, che l'autenticità della scrittura non dovrebbe essere provata per sua propria asserzione. Ma dobbiamo riconoscere che tutti hanno il diritto di parlare in propria difesa e che testimoniare a proprio favore non è considerato scorretto. In effetti, molte verità in merito ad una persona non sarebbero mai conosciute se questa non le annunziasse, e va da sé che, dichiarando il falso, la sua testimonianza deporrebbe a suo sfavore. Così è della parola di Dio. La scrittura testimonia molte verità che possono essere verificate o meno, perciò prenderemo la testimonianza che la scrittura dà di se stessa, per verificare se corrisponde alla verità. In effetti, gli errori più grossolani sul mondo fisico, come sulle divinità, si trovano in Omero, nella mitologia greco-romana, nei libri degli Hindu, nelle tradizioni buddiste e musulmane. Anche i filosofi antichi più geniali, come Aristotele, Platone, Plinio, Plutarco e Lucrezio, hanno scritto delle assurdità ormai più che provate, mentre nessun risultato della scienza, dell'archeologia, della fisica, della geologia o dell'astronomia si trova ad essere in contraddizione con la Bibbia. Perciò è non solo saggio, ma anche doveroso ascoltare la testimonianza della parola di Dio in merito al suo valore. 1. Giovanni 17.17. La parola di Dio è la verità. Quando parliamo di verità, dobbiamo iniziare a comprendere su di un livello diverso. La verità è ciò che corrisponde alla realtà, ed essa non si trova nell'uomo, ma l'uomo la può solo riconoscere. Quindi, non necessariamente è vero ciò che noi riteniamo tale e del quale siamo convinti. La verità non è soggettiva, per cui uno possa dire quello che è vero per te non è vero per me, quasi come se ciò che si sostiene, anche se falso, diventasse la verità solo perché se ne è convinti. La verità è l'accordo fra la ragione che giudica e la realtà affermata dal giudizio. Perciò, quando Gesù disse ai discepoli che la parola di Dio è la verità, intendeva sostenere che essa non era vera se gli uomini la ritenevano vera. Non era vera perché gli uomini la riconoscevano vera. Ma la parola di Dio è vera, perché è intrinsecamente la verità. All'uomo sta solo riconoscere il vero, diversamente la verità non cambia. L'uomo procede nell'errore. Il valore della parola di Dio sta allora nel suo contenuto divino inerrante, a prescindere dal suo riconoscimento da parte dell'uomo. Perciò essa acquista un valore inestimabile per comprendere la verità ed è il punto di riferimento per chi ha interrogativi e dubbi. Infatti, non vi è problema o interrogativo per il quale la parola di Dio non abbia una risposta. e se non l'abbiamo ricevuta è perché non la conosciamo come dobbiamo conoscerla. Questa è la ragione per la quale la società in tutti i settori brancola nel buio, perché non conosce la verità. Prendiamo ad esempio l'embrione, cioè il risultato dell'unione del gamete femminile con il gamete maschile. La questione riguarda la possibilità o meno di disporre dell'embrione per tutta una serie di pratiche legate alla fecondazione assistita o alla ricerca genetica, tra le quali le tecniche di diagnosi preimpiantatoria, la ricerca di cellule staminali embrionali, la sorte di embrioni soprannumerari, la clonazione embrionale e così via. Ma l'embrione, sia pure del concepimento artificiale, prodotto in laboratorio, è un essere umano a tutti gli effetti, che ha già determinati per mezzo del DNA il sesso, le fattezze somatiche, le caratteristiche dell'individuo che sarà nel tempo della maturità, il colore degli occhi, la profondità e l'espressione dello sguardo, il modo di muoversi, di interagire e di essere. Se la verità fosse soggettiva, una persona che berrebbe del veleno perché convinto sia limonata non morirebbe avvelenato, mentre invece è destinato a morire. Così è della parola di Dio. Se anche uno non la ritenesse la verità, non cambia il fatto che egli ne subirà il giudizio nell'ultimo giorno. La cosa saggia di fronte al giudizio divino non è negarlo, ma metterlo almeno in dubbio per poi verificare l'attendibilità della sua esistenza. 2. Romani 10.1-7. La parola di Dio produce la fede. Poiché è la verità, va da sé che la parola di Dio produca la fede giusta. Molte persone si fermano sul fatto che hanno fede, per loro l'importante è avere fede, ma una fede sbagliata non rende vero il falso. Gli induisti credono alla reincarnazione. Questa fede li porta ad avere una cura insensata degli animali. Ma le loro cure e la loro fede non rendono vera la credenza della reincarnazione. Com'è possibile avere la giusta fede che si limita a riconoscere la verità? Purtroppo sono molti coloro che hanno una opinione sbagliata della fede e per questo non possono arrivare alla fede che riconosce la verità. Per molti la fede è credere che Dio esista, è credere in un Dio creatore, è credere a ciò che ci risulti credibile, è avere un certo piacere ad avvicinarsi a Dio o un sistema di regole di vita cristiana. Altri confondono la vera fede con una certa aspirazione o un vago sentimentalismo, oppure avere una certa fiducia nel soprannaturale o aderire mentalmente al messaggio di Dio. La fede non è neppure essere convinti o persuasi di ciò che si crede, o appartenere ad una chiesa, pregare né leggere la Bibbia. Com'è possibile allora arrivare ad avere la giusta fede? Dio ha provveduto anche a questo, e l'Apostolo Paolo sintetizza l'opera di Dio con alcune domande. Come dunque invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? E come udiranno se non ci è chi predichi? E come predicheranno se non sono mandati? Come sta scritto, quanto sono belli i piedi di coloro che annunziano la pace, che annunziano buone novelle. La fede dunque viene dall'udire, e l'udire viene dalla parola di Dio. Ecco dunque la risposta a come sia possibile ottenere quella fede che riconosce il vero: ascoltare la parola di Dio. Anche questo aspetto sottolinea quanto sia grande il valore della parola di Dio, valore che non può essere uguagliato da nessun altro libro religioso. È vero che libri religiosi come il Corano o i Veda producono fede, ma è una fede inutile e vana perché non procede dalla verità. Questa valutazione potrebbe essere ritenuta di parte, ma nessun libro religioso è resistito agli attacchi della critica come la parola di Dio, al punto che si potrebbe dire che se gli altri libri religiosi fossero messi al vaglio al pari della Bibbia, nessuno di essi ne uscirebbe indenne come ne è uscita la parola di Dio. Perciò, il valore della parola di Dio sta anche nel produrre la giusta fede, quella fede che salva. 3. 2 Timoteo 3.1-6-17. La parola di Dio insegna e corregge. Nessun libro è simile alla parola di Dio. È possibile leggere la Divina Commedia, l'Odissea, l'Orlando Furioso o qualsiasi altra opera letteraria senza che una persona ne sia cambiata minimamente. Invece, la parola di Dio ha il potere di trasformare le persone, perché è un libro vivente con parole viventi. Così si è espresso l'Apostolo Paolo. Tutta la scrittura è divinamente ispirata e utile a insegnare, a convincere, a correggere e a istruire nella giustizia, affinché l'uomo di Dio sia completo, pienamente fornito per ogni buona opera. Spesso le parole hanno un valore relativo, perciò parlerò di me. Se Dio nella sua misericordia non mi avesse condotto a leggere la sua parola, mi chiedo dove e cosa farei ora. Posso affermare onestamente e obiettivamente con l'Apostolo Paolo che un tempo ero insensato, ribelle, errante, schiavo di varie concupiscenze e voluttà, vivevo nella cattiveria e nell'invidia, ero odioso e odiavo gli altri. Tito 3.3. Sono profondamente convinto che se la parola di Dio non avesse operato in me, condizionando e rendendo prigionieri il mio pensare e agire, non sarei nelle migliori condizioni di certi relitti del genere umano. Il mio maledetto e ostinato romanticismo avrebbe avuto il suo sopravvento sui miei sentimenti personali e soggettivi, rendendo la mia vita un'anticamera dell'inferno. La parola di Dio, per me, non è solo un libro che consola uno dei tanti doni di Dio, ma è la mia stessa vita. Essa ha formato lentamente il mio pensare, la mia personalità, il mio carattere, la mia volontà, le mie ambizioni, i miei desideri, le mie emozioni. Ora mi trovo non più a pensare con la mia mente, ma con la mente di Cristo. Mediante la parola di Dio ho compreso che Dio mi ha accettato così come ero. E mi accetta ora nonostante, o meglio, proprio perché sono malvagio. Egli sa che non nasco come prodotto finito e aspetta pazientemente che mi lasci trasformare all'immagine di suo figlio. Le scritture mi hanno fatto conoscere l'amore di Dio, quell'amore che è sparso nel mio cuore per lo Spirito Santo, e in virtù del quale ho la capacità di esercitare il vero amore verso il prossimo. So che i miei peccati passati, presenti, futuri non sono un problema per Dio, perché suo figlio mi ha riconciliato con il Padre mediante la sua morte e resurrezione. Io sono e mi sento quindi amato, perché la parola di Dio ha suscitato in me tale consapevolezza. Dio mi ha fatto comprendere, mediante la sua parola, che mi apprezza, mi incoraggia, che comunque vadano le cose, nessuna situazione e persona mi rapirà dalla sua mano. In ogni situazione sono più che vincitore. 4. Ebrei 4.12. La parola di Dio è in grado di parlare all'uomo. Di discorsi in questo mondo se ne fanno e se ne sentono all'infinito. Ma la maggior parte di essi, meno, come si dice, meno passano da un orecchio all'altro. Lo vediamo molto bene con i nostri figli. Parliamo. E loro continuano come se noi non avessimo detto niente. Anzi, a dire il vero, spesso constatiamo che proprio perché diamo un divieto, nei nostri figli nasce il piacere della trasgressione. Che i nostri figli o altre persone non ascoltino le cose giuste che diciamo fa parte della nostra natura umana, che è ribelle al bene, ma dobbiamo anche riconoscere che le nostre parole non hanno il potere di cambiare le persone. Non è sufficiente dire la verità perché essa sia ascoltata. Occorre anche il potere di far penetrare la verità nel cuore dell'uomo. Dato che questa capacità non l'abbiamo, ci sarebbe da scoraggiarsi, ma grazie siano rese a Dio perché ci che è un modo per far penetrare la verità nel cuore delle persone. Questo modo è predicare la parola di Dio. Perché predicare la parola di Dio e non altro? Cosa possiede la parola di Dio che non è presente in un altro libro? La risposta la troviamo nella stessa scrittura, nella lettera agli Ebrei. La parola di Dio, infatti, è vivente ed efficace e più affilata di qualunque spada a due tagli, e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla, ed è in grado di giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore. E non vi è alcuna creatura nascosta davanti a lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto. 4.1.2.13. Un marito era sordo ad ogni consiglio, e continuava a maltrattare la moglie e i figli. Era schiavo del gioco d'azzardo, e ogni tanto beveva un po', troppo, specialmente quando perdeva il gioco. Un giorno, per accontentare la moglie, entra in un locale di culto dove si predicava la parola di Dio e, colpito da ciò che udiva, si umilia, riconosce i propri torti, si vede colpevole davanti a Dio e accetta il perdono offerto in Cristo Gesù. Si alza dalla sedia, va davanti a tutti e testimonia quello che la parola di Dio aveva fatto nel suo cuore. Solo la parola di Dio era stata in grado di penetrare nel suo essere. Solo la parola di Dio era stata in grado di giudicare i suoi pensieri e le sue azioni. Ci si chiede ancora quale valore ha la parola di Dio? Può domandarlo soltanto chi non ha aperto il cuore all'amore della verità, o chi considera la parola di Dio una lettera morta. 5. Galati 3.2.4. La parola di Dio conduce a Cristo. Ogni scritto serve per comunicare qualcosa, una notizia, un avviso, un racconto o un'informazione. Per quanto si dica, la parola di Dio ha qualcosa da comunicare, anche se vi sono coloro che la disprezzano o la ritengono inutile. Che opinione abbiamo della parola di Dio? Perché il Dio Trino ha fatto scrivere tanti libri raccolti in un unico volume, chiamato Bibbia? Sembrano domande strane, ma sono molti a ritenere la parola di Dio un libro che non li riguarda, perciò è opportuno verificare se questo è vero. Cosa dice la parola di Dio di se stessa? L'Apostolo Paolo considera così la legge di Dio. Ora, prima che venisse la fede, noi eravamo custoditi sotto la legge, come rinchiusi in attesa della fede che doveva essere rivelata. Così la legge è stata nostro insegnante per portarci a Cristo, affinché fossimo giustificati per mezzo della fede. Ma, venuta la fede, non siamo più sotto all'insegnante. Galati 3.2-3.25. La legge di Dio che troviamo nelle scritture è continuamente sotto agli attacchi degli increduli, perché vieta e comanda cose che non ci piacciono, ma pochi prendono in considerazione che lo scopo della legge di Dio non è rendere infelice la gente, ma condurre le persone a porre fede in Cristo perché diventino adulte moralmente. Stessa cosa succede anche nella società. Il codice stradale non ha lo scopo di vietare una velocità che a noi piace, o di fermarci al semaforo quando noi vorremmo passare, ma essa è finalizzata a insegnarci a guidare bene. Se tutti, nessuno escluso, fossimo in grado di guidare senza fare il minimo incidente, il codice stradale avrebbe raggiunto il suo scopo. Stessa cosa è della legge di Dio. La ragione per la quale abbiamo la parola di Dio è quella di farci conoscere Gesù Cristo, di spronarci a porre fede in Lui e di vivere per Lui. Una volta ottenuto questo obiettivo, la parola di Dio, se conoscessimo ogni regola morale, potrebbe anche non esserci, perché la legge, come è scritto, è fatta non per il giusto, ma per gli iniqui e i ribelli, per gli empi e i peccatori, per i sacrileghi e GL e i religiosi, per coloro che uccidono padre e madre, per gli omicidi, per i fornicatori, per gli omosessuali, per i rapitori, per i falsi, per gli spergiuri, e per qualsiasi altra cosa contraria alla sana dottrina. 1 Timoteo 1.10. Dobbiamo stare attenti che a noi non capiti il rimprovero che l'Eterno rivolse al suo popolo. Anche se scrivessi per lui le mie leggi a migliaia, sarebbero considerate come cosa che non lo riguarda. Osea 8.12. 6. 1 Corinzi 15.12. La parola di Dio produce la salvezza. Questo aspetto del valore della parola di Dio riguarda ovviamente i religiosi. A chi non vuole credere in Dio e neppure in un'esistenza dopo la morte, parlare di salvezza non ha senso. Ma chi crede che la vita continui dopo la morte, nella parola di Dio, trova la risposta ai suoi interrogativi. Dato che dopo la morte vi sono due luoghi, uno di condanna e uno di salvezza, è utile, anzi, indispensabile, sapere come sia possibile evitare la condanna eterna. Gli uomini cercano istintivamente di meritarsi il perdono dei peccati e così l'entrata nella beatitudine eterna, ma questo non è possibile, perché se la salvezza si ottenesse con le opere, ossia meritandola, il sacrificio di Cristo sarebbe stato inutile. Perciò la parola di Dio dichiara che la salvezza si ottiene solo quando l'uomo accetta il piano di Dio. Come posso io conoscere il piano di Dio per la mia salvezza? Me lo diranno le persone religiose. Impossibile! perché ogni religione propone opinioni proprie e spesso contrarie alle altre religioni. Chi allora sarà in grado di dirmi la verità? La risposta è una sola. Se la parola di Dio è la verità, allora solo la parola di Dio può dirmi come posso essere salvato. Così ha scritto in merito l'Apostolo Paolo. Ora, fratelli, vi dichiaro l'Evangelo che vi ho annunziato, e che voi avete ricevuto e nel quale state saldi, e mediante il quale siete salvati, se ritenete fermamente quella parola che vi ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano. 1 Corinzi 15.1. Ecco il grande valore della parola di Dio: essa non solo annuncia come ottenere la salvezza, ma produce anche la salvezza in chi pone fede nel suo messaggio. Se le persone fossero salvate senza conoscere l'Evangelo, Dio non avrebbe mandato degli uomini ad annunciarlo. Non avrebbe dato l'incarico a Paolo di dire a Timoteo di predicare a tempo e fuori di tempo la parola di Dio. Se l'Evangelo non fosse indispensabile, coloro che hanno vissuto e vivono per predicare la parola di Dio avrebbero vissuto invano. La loro vita sarebbe stata la più inutile, tanto inutile come colui che voleva svuotare il mare con un secchio. Perciò io comprendo il valore che dai alla parola di Dio da come la usi. Se la leggi e l'annunci agli altri, allora significa che la ritieni indispensabile. Se invece non la leggi o la leggi poco, se non ti impegni a parlare di Cristo al prossimo, per quanto tu possa essere religioso, vieni meno al tuo grande compito. Al tuo grande compito, perché non vi è nulla di più prezioso, dopo Cristo, di un'anima salvata. 7. Luca 10.2.1.21. La parola di Dio è capita dai piccoli fanciulli. I fanciulli sono le persone meno coinvolte nella società e di conseguenza quelle che comprendono meno l'andamento della vita. Lo notiamo nel caso delle elezioni politiche, dove per esercitare il diritto al voto ciascun paese fissa una certa età da raggiungere considerata matura. Il fanciullo, per ragioni di età, non può guidare, non può prendersi delle responsabilità, non può comprendere tutto il linguaggio umano, non può sapere cosa sia un matrimonio o tutte le problematiche inerenti al matrimonio. Se così è nella vita, cosa dire nel campo religioso? Qualsiasi religione ha i suoi misteri, i suoi lati divini, ha inevitabili concetti rivolti ad una entità suprema che possono essere afferrati solo da chi è in grado di penetrare il mistico. Se al fanciullo è preclusa la conoscenza totale della vita, quanto più dovrebbe essere preclusa la conoscenza del divino? Eppure la parola di Dio, per quanto si riferisca a cose eterne, per quanto sia la rivelazione del Dio Trino, per quanto contenga una terminologia conosciuta solo da chi la legge, può essere afferrata dai bambini. Chi ha detto che la parola di Dio può essere afferrata dai bambini? Chi sostiene questa apparente stupida opinione quando dei grandi teologi ricercano de continuo di comprendere il pensiero del Dio Trino? Non lo ha detto un uomo stupido e neppure un uomo religioso, ma lo ha detto Gesù stesso, il Figlio di Dio. In quella stessa ora Gesù giubilò nello spirito e disse: «Io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai savi e agli intelligenti, e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Sì, o Padre, perché così ti è piaciuto». Luca 10.21. Qualcuno penserà che i piccoli fanciulli ai quali si riferisce Gesù siano le persone adulte che sono semplici in quanto a malizia, e questo è vero, ma più di una volta ho sperimentato come i bambini possano afferrare verità profonde quando si sono capite e si sono spiegate nel modo giusto. Ho presente una classe di bambini delle elementari che mi chiedevano di spiegare la relazione che intercorre tra il termine Dio e Cristo Gesù, perché la scrittura usa il termine Dio per designare il Padre e lo Spirito. Meno, si chiedevano meno, e a volte parla di Gesù, se anche lui è Dio. Dio e Gesù sono la stessa persona? La risposta non si fece attendere e presi l'esempio dell'acqua. Spiegai che l'acqua è composta di due parti di idrogeno e una di ossigeno. Quando usiamo il termine acqua, noi ci rivolgiamo alle tre componenti, mentre con il termine ossigeno ci rivolgiamo in modo specifico ad una sola componente dell'acqua. Così spiegai ai bambini: Cristo Gesù è una persona della Trinità ed è Dio, ma anche tutta la Trinità a volte viene denominata con il termine Dio. I bambini emisero un grido di gioia per la chiarezza ricevuta, dimostrando ancora una volta il grande valore della parola di Dio, comprensibile anche per i piccoli fanciulli. 8. Salmo 119.105. La parola di Dio illumina il cammino al credente. Non vi è dubbio che una delle più grandi necessità che ha l'uomo è sapere come comportarsi. Si entra in questo mondo senza nessuna conoscenza e si deve del continuo prendere decisioni, spesso in situazioni mai sperimentate. Per quanto si conosca intellettualmente, si resta spiazzati prima di partire. Come devo comportarmi sul lavoro? Come mi devo comportare nel matrimonio e con i figli? Noi abbiamo disperatamente bisogno di conoscere e di avere giuste guide. Sono forse i nostri genitori o amici a consigliare come dobbiamo comportarci. Molto probabilmente possono fare ben poco, perché anche loro hanno dei grossi dubbi. Chi è in grado di indicarci la giusta via? Un percorso che sia stabile e duraturo? La risposta è una sola: la parola di Dio. Il salmista su questo non aveva dubbi. La tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. Salmo 119.105. Purtroppo, la maggioranza delle persone vede la parola di Dio come un libro religioso che ordina comportamenti religiosi, vede la Bibbia come il libro che il fedele deve meditare per un desiderio struggente di qualcosa di sconosciuto, senza rendersi conto che la parola di Dio non è solo un codice, ma il codice morale e civile sia personale sia della società. Colui che si professa cristiano e non cerca nella parola di Dio la risposta ai suoi interrogativi o problematiche della vita, non ha compreso cosa significa essere e vivere da cristiano. La parola di Cristo non è un talismano da prendere solo in certe occasioni, ma deve essere parte della nostra esistenza. E per questo essa deve infondere e formare la fede, deve modificare e trasformare il nostro modo di pensare e di agire. Ma, affinché questo avvenga, la parola di Dio deve essere letta ogni giorno, Deuteronomio 17.18, deve essere esaminata, Atti 17.11, studiata 2 Timoteo 3.15, meditata Giosuè 1.8, impressa nella memoria, 2 Tessalonicesi 2.15, ricevuta, Atti 17.15, creduta, Giovanni 2.22, osservata, Matteo 7.24, insegnata a tutti, 2 Cronache 17. Avere una medicina e non prenderla non serve a nulla. Avere un ombrello mentre piove e non usarlo non aiuta a proteggersi dalla pioggia. Così è della parola di Dio. Essa è alla portata di tutti. Ma non ritenendola la nostra guida personale non ne riceveremo il bene e non saremo protetti dai giudizi di Dio. Dio parla tramite le scritture, a condizione che la parola di Cristo sia usata per udire la voce di Dio. 9. Salmi 119.9704. La parola di Dio dà intelligenza. In cosa consiste l'intelligenza? La parola di Dio definisce intelligenza il fuggire il male. Questa prospettiva di vedere l'intelligenza in una scelta morale ribalta alla radice il problema in merito a chi sia un intelligente, perché Dio considera le capacità di ricevere nozioni come un atto facente parte della natura, mentre scegliere il bene e rifiutare il male è un atto che può compiere solo chi ha la libertà di scegliere. E scegliere il bene è per Dio un atto di intelligenza. Se essere intelligenti è compiere una scelta morale, è ovvio che questa può farla solo l'uomo. E poiché non tutte le persone scelgono il bene, si può dire che non tutti gli uomini sono intelligenti, anche se è necessario ricordare che per istinto nessuno cerca il bene. Com'è possibile allora acquisire l'intelligenza? Come posso io comprendere quando una cosa è giusta o sbagliata? La risposta si trova nel valore che possiede la parola di Dio. testimoniava un credente circa 3.000 anni fa. Oh, quanto amo la tua legge! Essa è la mia meditazione per tutto il giorno. I tuoi comandamenti mi rendono più saggio dei miei nemici, perché sono sempre con me. Ho maggior intendimento di tutti i miei maestri, perché i tuoi comandamenti sono la mia meditazione. Ho maggior intelligenza dei vecchi, perché osservo i tuoi comandamenti. Per mezzo dei tuoi comandamenti io acquisto intelligenza. Perciò odio ogni sentiero di falsità. Salmo 119.9704. Questa testimonianza non procede da un fanatico religioso, ma da chi aveva compreso che la maturità dell'uomo, la sua conoscenza, la sua vecchiaia, non sono necessariamente strumenti di intelligenza o saggezza. Quante persone anziane e mature dovrebbero avere intelligenza e non la possiedono? Come riconoscere chi ha intelligenza? Dato che non è possibile vedere l'intelligenza, è possibile però riconoscerla dai risultati. Così, l'uomo intelligente mostrerà con la sua condotta di essere stato istruito da Dio. L'intelligenza che dona la parola di Dio non è dunque una conoscenza solo intellettuale e teorica, ma un cammino che non separa la vita religiosa dalla vita quotidiana, e chi lo percorre fa della propria esistenza un tutt'uno. Il sacro e il profano si intrecciano e si fondono talmente da non saper distinguere l'uno dall'altro. Chi è istruito dalla parola di Dio si vede e si sente in armonia con Cristo, sia quando fa la spesa, sia quando prega. Il valore della parola di Dio sta proprio nel fatto di rendere umano il religioso e religioso ciò che è umano. Un aspetto della parola di Dio da non sottovalutare. 10. Salmo 119.165. La parola di Dio dà la pace. La pace. La pace è il tema principale della società e delle religioni del XXI secolo. Da quando l'11 settembre degli aerei manovrati da terroristi hanno distrutto le Torri Gemelle a New York e compiuto un attentato alla Casa Bianca e al Pentagono, il mondo non è mai stato tanto assetato di pace. L'uomo cerca la pace sociale, ma soprattutto meno, anche se non lo sa meno, l'uomo cerca e ha disperatamente bisogno di pace interiore. Cerca la pace il terrorista con la sua morte violenta. Cercano la pace le milioni di persone che si suicidano ogni giorno. Cercano la pace coloro che divorziano. Cercano la pace coloro che vivono in pace, ma soffrono della mancanza di pace altrui. Tutti cercano la pace, ma questa è come qualcosa che non si possiede mai veramente, perché è sempre un po' più in là. In questa situazione, la parola di Dio si presenta come la risposta a questa grande ricerca. Grande pace hanno quelli che amano la tua legge e non cac e nulla che li possa far cadere. Non solo la parola di Dio parla di pace, ma di una grande pace. La pace non è forse pace? Esiste forse una pace e una grande pace? E come dire che esiste la sazietà dopo aver mangiato? Ed esiste una grande sazietà. Quando uno è sazio, non è sazio. La parola di Dio si riferisce ad una grande pace perché questa pace invade ogni settore della vita. Io posso essere in pace con me stesso e non esserlo con il mio prossimo. Posso essere in pace con il mio prossimo e posso non esserlo con Dio. Una pace sperimentata solo in un settore della vita rimane pace, ma non la grande pace. Ecco la ragione per la quale la Scrittura promette una grande pace a coloro che amano la legge di Dio. Perché la parola di Dio ha il potere di recare pace in ogni settore della nostra esistenza. Perché? Allora non tutti hanno questa grande pace. Perché non amano la parola di Dio? Cosa significa amare la parola di Dio? Certamente non significa solo leggerla e studiarla, perché vi sono milioni di persone che la leggono e la studiano, ma non hanno sperimentato la grande pace. Amare la legge di Dio significa obbedire a ciò che è scritto. L'omissione di questo porta alla mancanza di pace nel cuore dell'uomo e nella società. Finché gli uomini pregheranno un Dio che non è il Dio trino delle Scritture, finché i religiosi continueranno a pregare e invocare idoli o persone morte, finché il culto non viene reso solo a Cristo, sulla terra e nel cuore dell'uomo non vi sarà mai pace. Il valore della parola di Dio è dunque unico, perché offre la grande pace a tutti. 11. 1 Pietro 2.23. La parola di Dio nutre. Il nutrimento è l'elemento fondamentale perché possa esistere il regno vegetale e animale. Se una pianta non si nutre, muore. Se un animale non si nutre, non può sopravvivere. Se il genere umano non si nutre, non può rimanere in vita. Questo dato di fatto non è una novità così sconvolgente, ma lo diventa davanti alla dichiarazione della Scrittura, che la nostra anima ha bisogno di nutrimento. Subito pensiamo ad un ragionamento simbolico, come se la parola nutrimento, riferita all'anima, non avesse nessun significato, ma è un errore che paghiamo caro. La nostra anima, invece, ha bisogno di essere nutrita quanto il nostro corpo. Non insegniamo forse ai nostri figli a comportarsi? Bene, la disciplina che impartiamo ai figli non è forse finalizzata a farli diventare dei cittadini? Modello, quando impartiamo una disciplina o un'istruzione etica, chi stiamo nutrendo? Stiamo forse dando del cibo al corpo o stiamo dando un cibo morale per la loro coscienza? Un bambino che non riceve il giusto nutrimento morale sarà anemico meno, cioè carente meno nel campo etico, come lo sarà nel corpo, quello che non viene nutrito fisicamente. In effetti, molta delinquenza tra la gioventù proviene proprio da ragazzi che non hanno ricevuto dai genitori la giusta riprensione e educazione morale. Così, se la nostra anima, cioè la nostra componente spirituale, non riceve il giusto cibo, è costretta a non avere più giusti valori morali. Come alimentare in modo sano la nostra anima? Forse indirizzandoci a dottrine esoteriche o a moralismi religiosi. I risultati di chi si rivolge a strane dottrine o a strani e nuovi movimenti religiosi sono alquanto deludenti. Così, ancora una volta, la parola di Dio si propone come il cibo giusto per la nostra anima. Così scrive l'Apostolo Pietro nella sua prima lettera. Deposta dunque ogni malizia ed ogni inganno, le ipocrisie, le invidie ed ogni maldicenza, come bambini appena nati, desiderate ardentemente il puro latte della parola, affinché per suo mezzo cresciate, seppure avete gustato che il Signore è buono. La parola di Dio ha una caratteristica: non è possibile nutrirsi di essa se prima non si sono abbandonati certi atteggiamenti negativi, quali malizia, ipocrisia e invidia. Quante persone leggono la parola di Dio e non la comprendono? Non si può mantenere una condotta sbagliata e voler comprendere ciò che Dio ha da dire. 12. Giovanni 14.2. 1. La parola di Dio è lo strumento per dimostrare che si ama Dio. Non è possibile negare che vi sono milioni e milioni di persone che affermano di amare Dio. Eppure, oggi c'è. È qualcosa che non va. Forse si tratta dell'opinione che abbiamo della parola amore. Un marito dichiara a sua moglie di amarla e trascura sia lei che i figli. Dei genitori dichiarano di amare i figli e li costringono a vivere un'esistenza di stenti. Una moglie sostiene di amare il marito e vive come se questo fosse il vicino di casa. Questo dimostra che il termine amore ormai è rimasto un concetto astratto senza nessuna concretezza. Proprio perché la parola amore oggi non ha più alcun significato tangibile, abbiamo proiettato questo concetto distorto anche verso Dio. Dobbiamo accettare il fatto che non è possibile avere un'opinione giusta su Dio se non abbiamo la giusta valutazione della realtà che ci circonda e che gli errori di pensiero sono il risultato della disarmonia con la vita. Cosa significa allora amare Dio? Come è possibile essere sicuri di amare Dio come Lui vuole essere amato? Gesù rispose a questa domanda: chi è i miei comandamenti e li osserva, è uno che mi ama, e chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò e mi manifesterò a lui. Gesù non ha detto che chi prova un forte impulso vero Dio è colui che lo ama. Non ha detto che chi è convinto di amare Dio lo ama veramente, ma ha detto che la dimostrazione di amare Dio sta nell'osservare i suoi comandamenti. Stando così le cose, il valore della parola di Dio è veramente immenso, perché se non conoscessimo tramite la Scrittura qual è il volere di Dio, nessuna creatura umana sarebbe in grado di dimostrargli il suo amore. Religiosi come siamo, penseremo di amare Dio a modo nostro. Sono entrato in un locale di culto cattolico e il mio cuore ha avuto una stretta nel vedere quante persone sono convinte di compiere la volontà di Dio nel pregare i morti, i santi e Maria, nel recitare il rosario, nel seguire una religione che è frutto di tradizioni di uomini. Chi sarà colui che avrà il coraggio di abbandonare abitudini religiose sbagliate per osservare la parola di Dio? Dove è scritto nella parola di Dio che vi sono intermediari tra Dio e l'uomo? Non forse è scritto proprio il contrario, ossia che vi è un solo mediatore tra Dio e gli uomini, ed è Gesù Cristo? Perché andare a Dio tramite i santi e Maria? Il valore inestimabile della parola di Dio sta anche nel sapere come adorare e servire Cristo. Chi lo ha compreso? 13. 2 Timoteo 3.1, 6-17. La parola di Dio è stata ispirata da Dio stesso. I musulmani sostengono che il Corano sia una copia precisa, parola per parola, della rivelazione di Allah, le cui tavole originali sono sempre esistite in paradiso. I mormoni credono che Joseph Smith abbia ricevuto da un angelo un nuovo evangelo in geroglifici egiziani riformati. La parola di Dio non ha nulla di queste credenze fantasiose, ma dichiarando di essere stata ispirata da Dio stesso e scritta da uomini, rivela la sua umanità e divinità. L'apostolo Paolo in merito ha fatto una affermazione veramente unica. Tutta la scrittura è divinamente ispirata e utile a insegnare, a convincere, a correggere e a istruire nella giustizia, affinché l'uomo di Dio sia completo, pienamente fornito per ogni buona opera. Se la Bibbia fosse solo una rivelazione di un Dio onnisciente e incomprensibile, nessuna creatura umana potrebbe comprenderla. Se fosse solo il prodotto del pensiero degli uomini, sarebbe piena di errori. Ma poiché la scrittura di Dio è nella sua natura verità rivelata posta per iscritto, il credente è in grado di ricevere ciò che Dio vuole rivelare. Pochi danno valore al fatto che il Dottrino abbia fatto conoscere il suo pensiero per iscritto, ma avere ridotta in forma scritta la volontà di Dio è un dato che non può passare inosservato. Uno scritto assume un'esistenza indipendente dai fattori che lo circondano. Ho letto la notizia di una lettera che, per ragioni che ci sono sconosciute, ha impiegato 40 anni ad arrivare al destinatario. I contenuti storici e morali della lettera non hanno in alcun modo subito l'effetto del tempo, se non per alcuni aspetti culturali o linguistici. Se nella lettera ci fosse stato scritto che una persona si era curata una ferita con lo spirito, pochissimi comprenderebbero oggi che si era disinfettata una ferita con l'alcol, ma il fatto rimaneva. Così è della parola di Dio ispirata da Lui stesso. Ciò che il Dottrino ha fatto scrivere dagli uomini rimane vero per sempre, anche se per comprendere pienamente ogni parola occorre una certa preparazione storica, culturale e linguistica. Perciò, il valore della parola di Dio sta nella sua ispirazione divina, ispirazione che non ha nulla di misterioso o eclatante. Come il Figlio di Dio è vissuto sulla terra al pari di qualsiasi uomo, senza compiere imprese umane speciali se non l'essere guidato dallo Spirito come altri uomini di Dio, così è della parola ispirata da Dio. Sembra un libro qualsiasi, sembra un testo noioso, ma chi legge le Scritture con un cuore sincero e umile comprende e attesta che veramente la parola di Cristo è ispirata dal Dio Trino mediante lo Spirito Santo. 14. Matteo 24.35. La parola di Dio è eterna. Tutto ciò che procede dall'uomo è destinato a terminare, come è destinata a terminare la sua esistenza sulla terra. Nulla di umano ha un valore illimitato, perciò ciò che disse Gesù della parola di Dio o è pazzesco, o corrisponde alla verità. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. È vero che la parola di Dio è stata scritta dagli uomini, ma la sua durata eterna dovrebbe far riflettere anche il più recidivo incredulo di noi. Per comprendere il valore eterno della parola di Dio, è sufficiente prendere in esame le leggi morali e civili della società. Non esiste popolo O nazione che non cambi o non abbia cambiato le sue leggi morali e civili, e al giorno d'oggi vediamo la morale cambiare con un vertiginosa velocità tale che non è più possibile comprendere dove stia il giusto o l'errato. Non si fa in tempo a ritenere giusta una cosa che nel giro di pochi anni diventa sbagliata. E viceversa. Nell'arco di una generazione sono cambiati talmente i principi morali che la generazione di oggi vive in un contesto etico totalmente differente da quello vissuta nelle mie gioventù. Solo pochi anni fa la convivenza tra un uomo e una donna era impensabile, senza poi parlare della convivenza tra omosessuali. Per l'uomo incredulo non esistono principi morali assoluti validi per secoli e secoli, e in questo contesto di smarrimento morale e civile, la parola di Dio si presenta come il punto fisso e la pietra angolare sulla quale costruire la propria vita e la società. Il fatto che oggi, dopo circa 4.000 anni, ciò che Mosè ricevette sul Monte Sinai, i 10 comandamenti, siano ancora validi non dovrebbe far riflettere anche il più riluttante e impenitente. Qualcuno obietterà che i 10 comandamenti non sono più validi perché la società li ha rigettati. Ma chi ha dato tempo al tempo ha assistito che una società senza principi cristiani si trova in grande difficoltà a sussistere. E poi chi può dire che il principio dell'amore stabilito dalla legge di Dio non sia più valido? E il principio del perdono? E il principio della fedeltà? Proviamo a togliere solo questi tre principi appena elencati e poi vediamo cosa succede all'uomo come persona singola e alla società stessa. La parola di Dio è eterna perché è indirizzata all'uomo da parte del suo creatore e non vi è nessuno che conosca la creatura umana quanto chi l'ha creata. 15. Esodo 12.49. La parola di Dio è imparziale. Molte leggi favoriscono una classe sociale a discapito di altre. Ciò che colpisce nella parola di Dio sono le garanzie legali previste a favore degli indifesi, quali le vedove e gli orfani, gli stranieri, persone che chiedevano asilo politico, i debitori e gli schiavi. E l'origine divina della legge che, anche in questi casi, fa scaturire tali precetti umanitari. Anche la forma singolare nella quale era esposta la legge giudaica era segno di imparzialità, perché responsabilizzava ogni singola persona. Al tempo di Gesù, il diritto romano era molto duro nei confronti degli schiavi, ai quali neppure era riconosciuto il diritto di essere definiti persone. L'Eterno Dio, al contrario, parlava di una stessa legge e di uno stesso diritto, validi per tutti. Vi sia un'unica legge per il nativo del paese e per lo straniero che risiede tra di voi. Per il Dio Trino ogni persona ha lo stesso valore, anche perché non deve rendere conto a nessuno del suo operato. Leggiamo altresì nel libro dei Numeri. Si tratti di un nativo del paese tra i figli di Israele o di uno straniero che risiede tra di voi, avrete un'unica legge per colui che pecca per ignoranza. Numeri 15.29. L'imparzialità è molto probabilmente una delle caratteristiche più rare nell'ambito dei giudizi umani, come possiamo comprendere dalla lettera di Giacomo. Fratelli miei, non associate favoritismi personali alla fede del nostro Signore Gesù Cristo, il Signore della Gloria, Giacomo 2.1. Purtroppo tra i primi ebrei che si convertivano al cristianesimo vigeva ancora la grandissima ossessione di valutare di più alcune persone rispetto ad altre. Eppure, come fa presente Paolo in una lettera, le parti meno onorevoli del nostro corpo le trattiamo con maggiore onore. Un giorno entrò nel locale di culto una persona di dubbia moralità. Ed io, nella mia spontaneità, le andai incontro salutandola con affetto, ma poiché si vedeva osservata, con giudizio se ne andò. Un'altra volta un fratello in fede invitò un gruppo di zigani al culto, ma i genitori iniziarono a brontolare perché i loro figli facevano amicizia con i figli dei zigani, sicché questi non tornarono più. È facile parlare di amore e di imparzialità, ma in questo ambito noi esseri umani siamo una frana. Ma siano rese grazie a Cristo perché la parola di Dio non ha riguardi personali. Sicché il povero, il ricco, il religioso, l'incredulo, l'omosessuale e il virtuoso sono tutti giudicati da un'unica legge che scaturisce dalla parola di Dio. Il valore della parola di Dio non sta solo nell'essere eterna o divina, ma anche imparziale. 16. Marco 2.27. La parola di Dio è umana e umanitaria. I popoli che abitavano la Palestina al tempo di Mosè avevano costumi civili e religioni orrendi. Tra questi, il culto a Moloch, una forma di idolatria veramente ripugnante che comportava sacrifici umani, quali l'offerta all'idolo dei propri bambini o neonati. Moloch era rappresentato da una statua, dalla figura umana e con la testa di bue, seduta su di un trono e con le braccia tese. Era di bronzo, vuota internamente, e al momento del cruento rituale essa veniva riscaldata a mo' di forno. E i bambini venivano posti vivi sulle sue braccia, dove subivano una morte orribile. Questa pratica oggi è contraria al buon senso, eppure gli ebrei, una volta abbandonato Dio e la sua legge, adottarono un simile rito. Yahweh, per bocca del profeta Geremia, puntualmente li riprese. Hanno anche costruito gli alti luoghi di Baal, che sono nella valle dei figli di Innom, per far passare attraverso il fuoco i loro figli e le loro figlie in onore di Molech, ciò che non avevo comandato loro e non mi era mai venuto in mente che dovessero commettere una tale abominazione facendo peccare Giuda. Geremia 32.35. I pagani si facevano incisioni nella carne non soltanto come espressione di dolore per la morte di un parente, ma anche come atto sacro, mitigazione del sacrificio umano, per propiziarsi lo spirito del defunto. La parola di Dio, al contrario, ordina: non farete incisioni nella vostra carne per un morto, né farete alcun tatuaggio su di voi. Io sono l'Eterno. Levitico 19.28. Nell'Oriente semitico, la prostituzione, anch'essa condannata da Dio, era un'usanza prevista nel culto, offerto ad alcune divinità. In certi periodi, essa ha pure costituito una regolare e non indifferente fonte di guadagno per i sacerdoti di tali culti. Queste informazioni non sono date per saziare un'inappagabile curiosità, ma benedico il mio Dio perché se io sono umano, Lui lo è ancora di più. E lo è stato nel dare la sua legge santa ed eterna. Forse nulla di più sintetico e di più chiaro è stato detto come nel contenuto di questa dichiarazione di Gesù. Il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Ci si chiede ancora dove risiede il valore della parola di Dio. Sono gli uomini che hanno inventato leggi disumane, come il cattolicesimo che, rifiutandone il matrimonio, nega l'esercizio lecito della sessualità ai sacerdoti, inoltre vieta anche i rapporti sessuali alle coppie sposate, se in ogni atto sessuale non vi è lo scopo del concepimento. Ma la parola di Dio non mette mai pesi, mai divieti che l'uomo non possa portare, perché, come sta scritto, egli conosce la nostra natura. Egli si ricorda che siamo polvere. Salmo 103.14. 17. Matteo 9.1.1. La parola di Dio non è legalista. Pochissimi hanno compreso che la parola di Dio non è stata data con la speranza che noi potessimo osservarla. Essa è stata data con la piena certezza che sarebbe stata violata. E quando l'abbiamo trasgredita così pienamente da renderci convinti della nostra estrema miseria, la parola di Dio ha raggiunto il suo scopo. In effetti, un attento esame delle scritture ci porta alla conclusione che non siamo in grado di osservarla. E chi vuole ottenere la salvezza mediante la legge, cosa che gli è impossibile, si attira la maledizione di Dio, Deuteronomio 27.26, e scade dalla grazia, Galati 5.4. Dunque, lo scopo della parola di Dio è prima di tutto quello di farci conoscere ciò che è bene e male, di conseguenza convincere l'uomo di non essere in grado di adempierla, ossia di essere mancante, colpevole, peccatore, per indurlo alla fine a riconoscere di meritare la giusta condanna di Dio e alla fine presentare Cristo quale unico rimedio per la sua salvezza. Tutto questo perché, se la giustizia si ha per mezzo della legge, allora Cristo è morto invano o inutilmente. Galati 2.21. Ecco un altro pregio della parola di Dio: non è giusto o giustificato solo chi la osserva, ma è reso giusto davanti a Dio anche chi non la osserva, ma mette in pratica il movente per il quale è stata data. Se io osservo il codice stradale non sono perseguibile dalla legge. Se osservando il codice stradale passo con il verde, ma investo un passante che in quel momento attraversa la strada, non trasgredisco il codice stradale, ma ne violo uno molto più importante, cioè quello morale che impone di non procurare nessun danno al prossimo. Così è della legge divina. Posso osservare tutta la parola di Dio, ma se non pongo fede in Cristo, se non vivo per Lui, ho fallito il motivo per il quale mi è stata data la parola di Dio. Ecco perché le persone religiose che cercano di osservare le regole morali senza aver posto fede in Cristo non sono in regola davanti a Dio. Esse non hanno capito che non è tanto una condotta morale ineccepibile che Dio vuole, ma che l'uomo riconosca il sacrificio che Cristo Gesù ha compiuto. A cosa serve essere religiosi se si disprezza l'opera di riconciliazione di Dio? A cosa serve a un genitore un figlio obbediente alle regole di casa ma ingrato per il suo amore? Purtroppo sono molti coloro che adempiono alla legge di Cristo, pensando in tal modo di essere in regola con Dio ma che falliscono lo scopo per il quale è stata data la legge. A cosa serve? La forma religiosa del cattolicesimo se con la vita si rinnegano il valore e la potenza della parola di Dio. Gesù disse in merito, ora andate e imparate che cosa significa. Io voglio misericordia e non sacrificio, perché io non sono venuto per chiamare a ravvedimento i giusti, ma i peccatori. Cristo, Gesù vuole misericordia e non sacrifici. Ci sarà qualcuno che ascolta il cuore di Gesù? 18. Proverbi 4.2022. La parola di Dio è data per il benessere dell'uomo. Una legge non è sempre a favore del benessere dell'uomo. Basti pensare al tempo dello sterminio degli ebrei, o nei paesi totalitari, e ci rendiamo conto che quando si ritiene necessario si emanano leggi che sono un danno psichico e fisico alle persone. Purtroppo, anche nei paesi dove vige la democrazia a volte vi sono leggi disumane. L'approvare l'omosessualità, l'adozione di bambini da parte degli omosessuali, sono leggi che per quanto si dica sono disumane. Non mi si dica che è secondo natura che due uomini o due donne abbiano rapporti sessuali e allevino dei bambini. L'umanità è ancora cieca nel vedere il danno psicologico che si produce nei bambini educati da omosessuali, e quando se ne accorgerà sarà troppo tardi. Anche certe leggi a favore degli indifesi hanno dell'assurdo. Un uomo aveva sorpreso un ladro a rubare nel suo garage. E dopo aver chiuso la porta lasciando il ladro dentro, ha chiamato i carabinieri, ma è stato denunciato per sequestro di persona. Com'è difficile emanare delle leggi giuste? Com'è difficile trovare una nazione che abbia leggi a favore dell'uomo? Ebbene, il popolo di Israele aveva ricevuto una legge che era per la salute e la difesa dell'uomo. Così troviamo scritto nella parola di Dio. Figlio mio, sta attento alle mie parole. Punto, poiché sono vita per quelli che li trovano, salute per tutto il loro corpo. Sono le religioni che insegnano all'uomo di martoriare il proprio corpo o la propria anima. Se leggiamo la testimonianza di coloro che sono usciti fuori dalla piovra della religione per abbracciare il messaggio liberatorio di Cristo, a dir poco rimaniamo frastornati. Vi sono uomini e donne che ancora oggi flagellano il loro corpo e la loro anima solo per ottenere un qualche favore da Dio. Compiono digiuni, si privano dell'indispensabile, fanno sanguinare il loro corpo con la speranza che questo sia accettevole a Dio. La parola di Dio non ha mai insegnato nulla di simile. Anzi, la rivelazione di Cristo insegna che tutto è compiuto per essere graditi a Dio, che non vi è nulla da compiere per ottenere il perdono dei propri peccati, perché tutta l'umanità è già stata perdonata tramite il sacrificio di Cristo. Solo con la consapevolezza di essere già perdonato, l'uomo può evitare inutili sacrifici e dolori. Solo così può ritrovare quella serenità morale e spirituale che produce un benessere per tutto il suo corpo. La parola di Dio è la medicina per eccellenza per stare completamente in salute. Ci si può chiedere ancora a questo punto in che cosa consiste il valore della parola di Dio. La domanda muore sulle labbra ancora prima di essere formulata, perché chi se la pone è come colui che si chiede se esiste il sole. E il suo dubbio ne rivela l'immensa miseria e cecità. Novembre 2006. Contributo. La Bibbia. Libro di oggi Edizioni Pantico, Testamento Mosse, John Stott. Ellero.